Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La mia memoria io la conserverò con mio figlio. Quando avrò un figlio sarà lui la mia memoria storica e il mio passaggio all'eterno, diciamo. La memoria è quella che abbiamo dentro, quella che ci siamo fatti grazie a quello che ci hanno tramandato i nostri familiari, le persone a noi care e quelle che ci siamo fatti informandoci, ma informandoci veramente. La memoria di oggi verrà conservata esattamente come è stato fino ad oggi, cioè con lo scritto, e che lo scritto sia in grado di conservare la memoria di quei fatti che vanno a riguardare l'essenza dell'uomo e non quelli che vanno a suscitare un vago e superficiale senso di curiosità. La memoria dei nonni si trasmette ai nipoti. È da ieri che ho questo chiodo fisso, da quando ho visto la notizia dei ricercatori di Atlanta che avrebbero fatto questa scoperta analizzando dei topolini che avevano condizionato a avere paura di un certo tipo di odore. I nipotini di questi topolini di fronte a quell'odore erano terrorizzati. Quindi la conclusione brutale, poi avrò delle spiegazioni, è che esistono degli eventi traumatici che noi trasferiamo attraverso il DNA alla nostra progenie. Beh, se fosse così sarebbe fantastico. Noi abbiamo costruito delle macchine negli ultimi decenni che altro non sono che la metafora allucinatoria della nostra più profonda chiave di soluzione di tutti i dilemmi dell'umanità. Se la memoria umana è trasferibile, è un download, come fosse la memoria di un computer che posso passare da un computer all'altro, magari ho dentro, nascosto da qualche parte, dei file che sono, non so, i ricordi di mio nonno. Ma i ricordi di mio nonno fino a quando ha generato mio padre, e i ricordi di mio padre fin quando ha generato me. E considerando che una volta ci si sposava molto precocemente, avrò se no 20 anni, 25 anni di ricordi di nonni, padri, bisnonni, ben poco. Certo, oggi che si avvia la progenie in maniera molto più tarda, oggi che un cinquantenne, un sessantenne genera figli tranquillamente, probabilmente abbiamo dei file molto più pesanti di memoria. Beh, questa cosa qua, al di là della spiegazione scientifica o di riportarla in termini concreti, vi affascina? Pensate anche voi di avere qualche ricordo dei vostri nonni che vi portate dentro? Vi riaffiora qualche volta? Ci pensate? Ci avete mai pensato? So che non ha nulla di scientifico quello che vi domando, ma piacerebbe saperlo, proprio per una sorta di folle ed empirica riprova di questa teoria. 800240024. Ricordo benissimo i racconti di mia nonna quando io ero bambina, quindi verso gli anni 50, e di questa fame che aveva attanagliato forse più gli abitanti della città che non gli abitanti delle campagne, e di questi viaggi che venivano fatti da uno zio con la bicicletta da Milano alla Valcuvia per portare un chilo di riso che lui aveva ottenuto in cambio di altre derrate trovate al mercato nero. I racconti anche della mamma che vi diceva... Certo, è difficile poi stabilire se la memoria rimane attraverso dei racconti che magari abbiamo percepito da bambini, attraverso le testimonianze, o abbiamo improvvisamente l'affiorare della memoria profonda della fame della guerra dei nostri nonni. Sembra molto difficile da accettare, perlomeno in termini razionali e scientifici, perché sembra attingere una sorta di spirito della progenie, qualcosa che attiene i domini della fantascienza, del metafisico, ma nulla a che fare con la concretezza scientifica. Almeno questa è la domanda che noi poniamo al professor Edoardo Boncinelli. Buongiorno professore. Buongiorno. Il professor Boncinelli è uno dei più stimati, quotati, illustri genetisti che abbiamo nel nostro paese, anche filosofo della scienza. Lei ha visto la notizia, cosa ne pensa, professor Boncinelli? Ma guardi, appena l'ho sentita mi è parsa follia, però poi ho consultato un pochettino la rete e ho visto, primo, che il fenomeno non è la prima volta che si nota, e secondo, che la notizia è riportata da una rivista serissima come National Science. È l'unica cosa che io riesco a pensare, ma tanto di notizie più approfondite, è che si tratti di un fenomeno che oggi si chiama epigenetica, per cui una certa modificazione non della sequenza del DNA, ma del cromosoma possa essere ereditato. Certo, uno potrebbe dire perché salta i genitori. Beh, lì si potrebbe trovare tante spiegazioni e comunque è un dato di fatto noto a tutti che spesso i nipoti somigliano più ai nonni che ai genitori. Questo fa pensare subito, vede, noi abbiamo delle moderne metafore che ci spiegano cose che non abbiamo mai, non siamo mai posto nel problema. Un ascoltatore mi scrive che in un famoso videogioco, Assassin's Creed, c'è un congegno chiamato Animus che, con il quale si attingono i ricordi degli avi dal DNA. Questo eroe inconsapevolmente, per combattere il male nel videogame, va a riprendere i ricordi degli antenati. Però lei dice una cosa ben diversa. Un evento traumatico forte muta qualcosa nei nostri cromosomi. Quindi questa è la paura, la fame, il terrore. Lascia delle tracce. Qualcosa di molto forte, cioè quindi non ricordi, non aneddoti, bensì un'avversione profonda che abbia lasciato una traccia, uno stress, in parole povere. Però la notizia in sé non è da disprezzare. Quindi è una cosa molto interessante, cioè abbastanza interessante valutare. Quale potrebbe essere il portato interessante di questa notizia? Che potremmo fare delle ricerche a ritroso e capire quali sono stati gli eventi traumatici che hanno segnato la nostra stirpe, qualcosa del genere? Ma sugli eventi traumatici non credo che ci sia tanto di divertente da fare, però se si capisce come funziona, io poi sono uno scienziato, quindi sono interessato a capire, se si capisce come funziona si potrebbe, lo dico con molta cautela, addirittura riuscire a ereditare certe conoscenze, il che non sarebbe niente male se io nascessi con già il teorema di Pitagora nella testa. Ma le faccio una domanda assurda, proprio da profano, però mi piace giocare con le persone che hanno in realtà solide basi scientifiche. Per assurdo, noi abbiamo scritto dentro tutto, se questa teoria potesse essere spalmata. La storia di tutte le persone che mi hanno preceduto, in qualche maniera è scritta, c'è proprio un file nascosto che io potrei riportare in superficie e leggere dentro di me? No, una cosa o un'altra. Se uno si ricorda una cosa, certamente non se ne può ricordare un'altra, perché lo spazio è molto limitato. E quindi niente, bisognerebbe trovare. E come si potrebbe operare, diciamo, nei nostri cromosomi per risalire il filo dei ricordi di cui abbiamo ereditato? Andare indietro è difficile, andare avanti si può fare in laboratorio, però se la cosa funziona poi ci può servire anche a essere guidati nel tornare indietro. Le sono molto grato, professor Voncelli. Sentiamo qualche ascoltore. Marco da Modena. Pronto? Ecco. Ciao Gianluca, io dai tempi di Golem che ti seguo. Allora, vado avanti oggi, perché oggi è la follia, è la follia della giornata. Mi dica i ricordi di suo nonno che ancora rimangono. Nel 1899, sì. Prima guerra mondiale, scappò dal fronte mentre veniva a casa a piedi con un suo amico. Praticamente dovevano arrivare a Modena in prossimità di Reggio Emilia. Sì. C'era una ronda che praticamente cavano i disertori e tramite un'altra persona presero questo, diciamo, cunicolo per schivare Reggio Emilia. Fatto sta che non è che naturalmente questo cunicolo era tutto lungo la città di Reggio Emilia e loro bucarono dentro al manicomio che era rinomato allora di Reggio Emilia, quindi praticamente io mi ricordo nelle sue parole questo suo ma gliel'ha raccontato nonno, lei c'ha questo ricordo al di là del racconto. Sì, mi ha raccontato questa storia qua, anche perché io allora quando mi raccontò questa diversa storia, la cosa, Marco. I maniconi c'erano ancora. Ah, dimmi. Beh, ho capito, lei comunque gli ha raccontato il nonno, non è che esce fuori dal suo cromosoma il ricordo del nonno, non è che ha l'impressione di aver vissuto questa storia. Marco da Firenze, vediamo se ci avviciniamo più a qualcosa che non ci riusciamo a spiegare. Sì, buongiorno. Ecco. Io credo di essere proprio il caso, proprio, come dire, scientifico dello studio che state Per fortuna, se no. Perché io sono rimasto orfano piccolissimo, non ho conosciuto praticamente mio padre, e mi sono ritrovato poi in età molto avanzata a sapere invece chi era il nonno, cosa che non sapeva neanche mio padre, perché era figlio di un nonno sconosciuto. Io poi in età avanzata ho indagato e lì mi si è aperto uno scenario incredibile, perché ho trovato la risposta a tutte le domande che mi ponevo. Ma lei come ha fatto a far riaffiorare questi ricordi nascosti? Questi ricordi sono semplicemente... Si è concentrato, come ha fatto? No, questi ricordi sono solamente il frutto di un istinto che viene dall'interno dell'uomo, cioè le passioni, le debolezze, l'amore per certe cose che nessuno ti ha insegnato, neanche a scuola. Quindi lei è convinto che esista una prova in lei di quello che stiamo dicendo? Sarà convinto dentro di noi esiste una banca dati che viene trasferita attraverso, diciamo, i cromosomi, il DNA, eccetera, una sorta di hard disk che contiene tutte le informazioni genetiche. Lo diceva anche Oliver Sacks, fra i suoi pazienti c'era una signora irlandese che improvvisamente sentiva la musica che ascoltava da fanciulla, la sentiva perfetta, completa, canzoni che lei non aveva mai studiato, e a un certo punto pensava di avere un problema. In realtà è come se si fosse sbloccato un registratore interno che gli riproduceva tutta la musica della sua vita. Sono cose di cui non ci si spiega, però è importante rifletterci sopra. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Non vorrei virare nel giacobismo. Gianni, andiamo. Niente, pensavo che potesse essere plausibile anche la paura atavica che alcuni hanno, non so, dei serpenti, degli arachnidi, magari inspiegabilmente, non perché abbia avuto un... fanno un po' schifo i ragni, certo. Serpenti. Forse paura, che ne so, delle farfalle o paura delle rose purpure, capirei, ma paura delle serpenti è spiegabile in qualcosa? Spiegabile che... sì, però c'è chi è terrorizzato all'idea di avvicinarsi e altri invece lo vivono diversamente. Potrebbe essere che qualcuno che invece è terrorizzato così direttamente e inspiegabilmente, può aver avuto un inconveniente personale da piccolo, tipo, non so, è stato morso da un cane. Ma qualcuno invece che non è stato morso da un cane magari ha il terrore del cane, perché potrebbe essere... Perché suo nonno era stato azzannato sulle chiappe magari due generazioni prima. È molto facile questo. Fermiamoci un istante, molto bello. 800240024, raccontateci se avete dei ricordi che vi affiorano, che immaginate che possono essere appartenuti ai vostri nonni. Per la nuova teoria dei topolini che hanno paura della puzza, potrebbe essere una prova ulteriore della teoria questa mattina cerchiamo di spiegare. A tra poco. Arrivati in quel punto, ci troviamo una strada sbarrata da un camion e il tram si ferma. Si ferma, mentre eravamo lì fermi, passa un carro armato e mio amico si affaccia al finestrino del tram per guardare sto carro armato che non aveva mai visto. Mentre si affaccia, gli cade la penna stilografica. Aveva una penna stilografica nel taschino che era un regalo di suo padre. A quel punto il tram fa ancora qualche metro e lui, per paura poi di sentirsi sgridare dal padre, scavalca il finestrino e corre verso questa penna stilografica per raccoglierla e non arrivare a casa senza, per non prendersi le sgridate del padre. Fatto sta che mentre corre verso la penna stilografica arriva un altro carro armato che gli passa sopra la sua penna e la riduce in poltiglia. Sono problemi se uno pensa queste cose e immagina che in realtà possa esistere una sorta di passaggio generazionale dei ricordi. C'è qualcuno dei vostri comportamenti, delle vostre idee fisse, delle vostre ossessioni, che abbiate avuto una volta almeno nella vita il sospetto che vi sia stato passato dai vostri nonni? Sì, perché questo in parte confermerebbe la teoria degli scienziati d'Atlanta che hanno fatto sentire la puzza al topolino e i nipoti alla stessa puzza erano spaventati. Certo, se fosse stato un pezzo di formaggio e fossero stati spaventati avrei avuto maggiore margine di certezza. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Andiamo al punto. Io ricordo solo che da giovane, ho 64 anni, quando avevo poco più di 18 anni sono andato con degli amici vicino a Udine per vedere dove si era svolta la battaglia di Pozzuolo del Friuli, dove avevano fermato gli austriaci il Novara e il Genova Cavalleria, se non ricordo male. E c'era suo nonno. E ci aveva partecipato suo nonno. Come lanciere di Novara. Non conoscendo i luoghi, ho portato dei ragazzi in un punto, ho detto guarda, credo sia questo perché me ne aveva parlato il nonno di un posto in campagna, eccetera. E niente, abbiamo visto sto luogo. Quando sono ritornato, una quindicina di giorni dopo, ne ho parlato con mio bisnonno e si ricordava le strade, la serie di alberi, un piccolo argine che c'era, ed ero arrivato nello stesso punto. Insomma, lei aveva avuto l'impressione che il ricordo di quel posto, che ha segnato fortemente l'emotività di suo nonno, era rimasto in qualche maniera attaccato alla sua memoria genetica. Lei è andato nel posto esatto in cui suo nonno subì l'attacco, suo nonno gliel'ha confermato. Stefano. Pronto? Sì. Pronto? Spenga la radio. Subito. Ecco, qui no, si tratta, va già fatto una cosa tipica. Di scusi un attimo, mi corregge Intonti, hai ragione. Io mi piace andare per facezze. I topi non è che erano spaventati dalla puzza, avevano associato a un odore un comportamento. I topi dell'altra generazione, i nipotini, allo stesso odore facevano la stessa cosa. Poi se si turassero il naso non lo so, però facevano qualcosa legato a quell'odore. Prego, vada avanti, scusi Stefano. No, c'è un fatto molto tipico, per esempio, anche se tra tradizioni orali, tra generazioni. Per esempio, infatti, quando sentono parlare guerra, per esempio, allora c'è stato questo fatto quando ci fu tipico della guerra del Kuwait, la gente impressionata subito a comprare, a fare riserve scorte di cibo, perché sentivano parlare di queste cose, del razionamento. Ma perché i nonni gli hanno fatto due palle così tutta la vita, quando c'è la guerra compra lo zucchero, compra il latte in condensato, in polvere, anche compra... E anche se è una cosa che succede migliaia di chilometri. Pacchi di zucchero, non so, la gente la farsi venire il diabete precoce. Io mi ricordo case piene di zucchero, non so perché si pensava che mancasse lo zucchero. Però vedi, ci sono altri casi, anche con altri animali, per esempio anche i piccioni, anche se vivono in città, sì. non sono abituati, anche se si sentissero un verso di un falco, di un predatore, se ne vanno scappando, si spaventano. Vabbè, loro lo sentono, il falco gli manda un segnale laser che gli dice, vengo ti torco il collo, quello è no, chiaro. È proprio... Vabbè, non azzardiamo, ci vogliono prove scientifiche. Silvia. Sì, buongiorno. Una curiosità che mi ricorda è questa paura dei fuochi d'artificio che ho sempre avuto fin da bambina. Quando mi portavano a vederli era un'occasione di festa per tutti, invece io sentivo un'angoscia tremenda, mi sembrava che mi sparassero addosso. Ma glieli sparavano vicino per fargli rispetto? No, no, assolutamente. Però io sentivo qualcosa che doveva colpirci, che era potenzialmente molto pericolosa, che mi dava angoscia, dovevo nascondermi o sotto le sdraio, se eravamo in spiaggia, o sotto le sdraio. E quindi questo cosa la fa pensare? Più tardi ho saputo delle storie dei nonni che hanno vissuto la guerra, la nonna che raccontava dei bombardamenti a Milano, che si dovevano rintanare nelle cantine, e lo raccontava con molta enfasi, l'aveva vissuto in maniera veramente intensa. Il nonno lontano in guerra e lei qua con i bambini piccoli, però l'ho saputo molti molti anni dopo, per cui mi è venuto subito da associare il discorso dei topolini e dell'odore a questa esperienza. Ma direi che questo è un esempio molto coerente con quello che stiamo dicendo. Lei a un certo punto c'aveva questa paura inspiegabile, i fuochi d'artificio, sì. Per tutti era una festa, per lei andava a cercare un posto per nascondersi. Poi ha saputo che i suoi nonni hanno avuto questo trauma forte di dover scappare sotto i bombardamenti. Questo è interessante, Silvia. Spero che ne tengano conto gli scienziati di Atlanta. Francesco. Buongiorno, buongiorno. Piacere parlare con lei. A me mi è successo un fatto simile durante il servizio militare. Stavo facendo un servizio... eravamo entrati in un vecchio magazzino utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale come ospedaletto. All'interno di questo magazzino c'erano diverse cose che riguardavano i militari, però mi sentivo molto agitato e nervoso, quasi una sensazione che non mi piaceva stare lì dentro, anche se era un semplice magazzino. Dopo questa cosa l'ho sotterrata, ma mio padre mi raccontò invece che durante la Seconda Guerra Mondiale mio nonno rimase molto scosso, perché fece la guerra in Albania, rimase molto scosso perché sempre in uno stabilimento simile, in un ospedaletto, ci furono molti feriti di italiani, soldati italiani feriti, dilaniati da diverse bombe, ci fu un bombardamento alleato. E quindi lei trova, qual è il nesso? Suo nonno... Io non ho mai conosciuto mio nonno che è morto giovane, ma mio padre me lo raccontò guardando in televisione diversi racconti di guerra e mi disse, lo sai tuo nonno questa cosa l'ha vissuta anni fa? E io lì dissi, babbo lo sai che mi è successa una cosa simile entrando in questo vecchio ospedaletto. E allora io penso che sia legata a questa cosa. Lei immagina di aver riallucinato lo shock di suo nonno ricoverato sì, in un ospedale? Sì, perché adesso guardando questa cosa mi no, però lo sa quale cosa è interessante? Io mi piace sempre buttare lì le cose per facezze, che però realmente affonda su qualcosa di non detto, come quando parlai del volare nel sonno, che tutti improvvisamente hanno confessato che avevano volato almeno una volta a vita del sonno. Tutti pensano comunque che alcuni dei propri ricordi appartengano ai propri nonni. Stefano. Buongiorno, Stefano da Verona. Sì. Velocemente, mio nonno era sordomuto, io abitavo in una casa molto grande e quando io mi svegliavo, che ero piccolino, avevo 3-4 anni, nessuno sentiva che mi svegliavo e non se ne accorgeva. E aveva questa sensibilità, essendo sordomuto, che capiva le persone. E lui me l'ha trasmessa. Cioè io capisco quando una persona se sta male, in casa se è successo qualcosa ai figli, alla moglie, se si svegliano i figli. Quindi una sensibilità oltre la norma ereditata da suo nonno che essendo sordomuto aveva acuito altri sensi. Anche questo è molto interessante. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti.